Buon pomeriggio. Comincia il cammino di Gigi D'Agostino. Per mantenere la forma a tempo del cammino, seguite il passo di Gigi D'Agostino. Lento, violento. Camminiamo a tempo. Dei fenomeni. e nella successione dei fenomeni. Gigi D'Agostino, il tuo antidepresso. Rimani connesso. Non correre. Scopri la pace interiore della lentezza consapevole. Impara a camminare con il passo lento. Lento, guardati intorno. C'è sempre un fiore nuovo, un colore che ti stupirà. Camminare non è una competizione. Camminare fa bene a tutte le età. È un'attività sportiva poco traumatica. E le sollecitazioni, citazioni alle articolazioni, colazioni, sono di gran lunga inferiori a quelle che si subiscono nella corsa. In generale, non esistono controindicazioni ad una buona e sana camminata musicata. Camminata musicata. Anzi, è consigliabile farlo ogni giorno. Ascoltando i passi del cammino di Gigi D'Agostino. La nostra costanza attraversa anche i sassi. Gigi D'Agostino non fermi sui passi.

macho. Che cacio. Dai una mixata, vai, gira. Sì, ho capito. Ciao, sono Gigi D'Agostino e questo è il mio cammino. Si sente? Qui c'è la musica di Gigi D'Agostino. Vai di cassa. Perplessità. Mando la pubblicità. Si riparte. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. No, così. Siete sintonizzati sulla frequenza della benevolenza. N2O. cammino di me medesimo d'Agostino. Ogni movimento rivoluzionario è romantico per definizione. Antonio Gramsci. Sabato 10 febbraio 2007, ore 22:30. Officina emotiva con Gigi D'Agostino in concerto mentale nella sala sperimentale presso la discoteca Metropolitan, Casteggio, Pavia. Cammino di Gigi D'Agostino. La vostra voce 3 3 3 6 4 6 7 6 6 2. Buona, buona, buona. Niente di roba, va. Ascoltatori e danzatori, chiamate i vostri genitori, verti, va. Qui c'è musica che pesta, suona il maestro e roba onesta. Thank you. Gigi D'Agostino. Musical Mental. Gigi D'Agostino. Musical Mental. Un DJ con le palle. Benvenuti nel nostro giardino. Qui c'è la musica di Gigi D'Agostino. A volte è scontrosa, a volte è più dura. Ma la vostra mente viaggia sicura. È come se tutto fosse strano. Aria, sulle mani. È come se tutto fosse strano. Aria, sulle mani. Per Gigi D'Agostino. Aria, per Gigi D'Agostino. Sulle mani. Per Gigi D'Agostino. Aria, per Gigi D'Agostino. Sulle mani. Per Gigi D'Agostino. D'Agostino. Aria. Fermamosi un momento. Parte lento, violento. E vi... Parte maestro, corteadro, erburattino, Gigi D'Agostino. Dai, sì. Cammino del Gigi D'Agostino. Costanza attraversa anche i sassi. Gigi D'Agostino non ferma i suoi passi. Durante il cammino riscopriamo anche la bellezza del silenzio, dell'ascoltare il proprio passo, il proprio respiro. Camminare aiuta a liberare la mente dallo stress e dai problemi. Aiuta a scaricare l'energia negativa accumulata in mesi di lavoro. di Gigi D'Agostino. Ogni giorno ti scassa un pochino. Cammino di Gigi D'Agostino. Ogni giorno ti aspetta qui alle 18. Non abbiamo tempo da perdere. D'Agostino, un altro modo di fare musica. Sweetness, I was only joking when I said that.